l'anima è l'ora più lunga della vita della vittima, proprio quando l'anima resta circoscritta nella musica, dentro le parole che l'hanno rapita e sconfitta. Che ora è l'ora più lunga, quando cala il buio fitto nei quaderni di morte, è stato scritto il nome, la ragione, l'esecuzione in una maledetta canzone. Maledizione dalla giungla, che se ancora non ci credi, arriva la macumba e crolla il mondo sotto i piedi. Ed è l'ora più lunga che si dilata, diventa la tua vita, e credi che anche Dio ti maledica. Ti eri voluto, quello non ti caga mica, tu per lui sei come per noi una formica. C'è molto se non ti schiaccia quando passa e tu ringrazia, pensando che così poi ti risparmia. Niente da fare, tutto prima o poi si sfascia. E so che fa male quando ti sotterri, lascia di guerra per l'ultima battaglia, prima che il sole sorga sulla terra ancora. Chi si sono, chi si intende, le maledizioni a bacia, l'hai compresa, guglioni. Quello che dico dentro queste mie canzoni, se non è successo già lo farà, e pochi sono pensieri buoni. Ho perso il senno tra visioni a cui non ho creduto, ma si realizza l'orrenda realtà, concretizza la tua disperazione. È solo suggestione, è una superstizione, premonizione grigia, strisciando viene fuori dalla cripta, nel mezzo della giungla più scura, più fitta, raggiunge chiunque ovunque, ed è l'ora più lunga, voodoo, se accade proprio a te. L'ultima è l'ora più lunga della vita della vittima, proprio quando l'anima resta circoscritta nella musica, dentro le parole che l'hanno rapita e sconfitta. Che ora è l'ora più lunga, è quando cala il buio fitto nei quaderni di morte, è stato scritto il nome, la ragione, l'esecuzione in una maledetta canzone. Nel buio della notte, nella giungla, il predatore ha già fiutato la sua vittima. Panico moltiplica, l'adrenalina sveglia la sua sete di sangue, e si placa solo quando infine sviscera la carne. Dove viviamo noi non è poi così diverso, o io mi mangio un altro mangia me, questo è certo. Forse cambia un po' l'aspetto, nascosto nell'ipocrisia l'istinto è lo stesso specchio dentro a cui non mi rifletto. Perciò se non sono uguale a loro sono solo contento, e nella giungla urbana riecheggia il mio lamento, con quello che ho la forma che poi sventro. L'ora più lunga io la sto ancora vivendo, e devo ringraziare chi ha voluto questo inferno. Così faccio un rituale di parole, zio, un pongo al centro, tanti saluti poveretto. L'ultima è l'ora più lunga della vita della vittima, proprio quando l'anima resta circoscritta nella musica, dentro le parole che l'hanno rapita e sconfitta. Che ora è l'ora più lunga, è quando cala il buio fitto nei quaderni.